Mi sento vivo, scrivendo questo testo molto meno vivendo, affrontando tutto questo punto in alto. Anche se ultimo in classifica, affronto lo scontro pronto all'impatto con la critica. Il futuro nero e sclero, tutto si preannuncia triste. Vedo re perché c'hanno più spinte che rime scritte. Mando a fanculo gli scheletri negli armadi. Noi non siamo mica moda, alza quelle fottute mani. Ah, tu saresti il king del rap. Metto la mia faccia sulla traccia, tu la maschera di internet. Bilderberg, tutto di nascosto come Sprinter Cell. Sei più bravo cazzo, aspetti, qui c'è il test. Lo faccio per moda, fra chi lo dice mi sembra un idiota. Quando conosce quello che è passato rimangia la frase, poi abbassa la coda. Antonio mai si nota, ma sul mic tu sai si nota che nella top 10 tu dovessi stare dietro Mike Shinoda. Non so come fare questa merda, non la puoi fermare. Se tra dire il fare c'è di mezzo il mare. Gli occhi fissi all'orizzonte, mente dentro una spirale. Mentre dentro il vuoto da colmare mi basta solo aspirare. Non so come fare questa merda, non la puoi fermare. Se tra dire il fare c'è di mezzo il mare. Gli occhi fissi all'orizzonte, mente dentro una spirale. Mentre dentro il vuoto da colmare mi basta solo aspirare. Rap, very nice contro tipi d'outside. Siamo l'omega dell'hip hop, frate come Sean Price. Se ogni rima plasma il ferro come un ottimo Prime. E i tuoi testi fanno pena come le San Carlo a Lime. Stappa un'altra Bex quando entri nel backstage. Rappi vintage si spostano quando fai stage. Se è per te mangiare rapper, se è come se fosse un gioco. Io prendo Cico, Tony e il mondo, frate dopo gli do fuoco. Ti sembra poco? È un lavaggio di cervello senza sbatti. Se stacco le sinapsi e le intreccio per impiccarti. I testi son da pazzi, servono a ricaricarti. I tuoi invece son basati solo su concetti astratti. Non fotti col 96 che ogni parola avanza. Se ti lascio degli avanzi è solo per regalarti speranza. Lo faccio con costanza fuori dalla massa circostante. Circoscrivo MC in tutte le circostanze. So come fare questa merda, non la puoi fermare. Se tra il dire e fare c'è di mezzo il mare. Gli occhi fissi all'orizzonte, mente dentro una spirale. Mentre dentro il vuoto da colmare mi basta solo aspirare. Non so come fare questa merda, non la puoi fermare. Se tra il dire e fare c'è di mezzo il mare. Gli occhi fissi all'orizzonte, mente dentro una spirale. Mentre dentro il vuoto da colmare mi basta solo aspirare.